Finché Ciro Abbondante è di tutti, possiamo parlare. Ricordi perché il invito è stato fatto a tutti. Non a uno. Perché noi siamo contrari a che nel cantiere sia riempito, il cantiere sia riempito tutto di cemento. Abbiamo bisogno di aree per servizi, di verde, di parcheggi, non abbiamo bisogno del porto, non abbiamo bisogno del cantiere, abbiamo bisogno di 600 metri di spiagge. Il cantiere serve per la città che c'è, non per i comodi dei costruttori. E con questo ho finito. E dei fondi comuni di investimento. Certo. Big Ben. Parli, si toglie il microfono, cerchi di parlare più forte, ti mette la musica. È un assemblea del comune questa qua. Ma stiamo scherzando! Guarda, guarda, ne vado! Va bravo, va! Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi! Ciao, buona serata! Ciao! Tutto bene? Tutto bene, che seratina ragazzi! Mamma mia, non mi aspettavo che tra l'Igor e di assistere ad uno spettacolo di questo genere. Mi dispiace, francamente, comunque avevamo un'opportunità di avere qui amministratore delegato, presidente, architetto, progettista. No, potevano stare un momento a rispondere alle domande della cittadinanza e invece no. Dove sono? Certo. Per colpa di Carrara. No, colpa non lo so. Beh, diciamo che il sindaco è stato tranchante, molto tranchante, non so, però siamo in campagna elettorale, no, Daniele, siamo in campagna elettorale, c'era veramente, avete sbagliato, avete sbagliato perché se rimanevano sul palco e i cittadini, no, ma io mi ero preparata due o tre domande da tecnica, cioè era previsto. Quindi bisogna rispettare, siamo in campagna elettorale, rispettare la scaletta. No, invece la scaletta queste cose qua sono pagliacciate. Queste sono pagliacciate. Io non entro nel merito delle azioni di altre persone. Io dico, sono qui come cittadina, mi ero preparata due o tre domande tecniche e non ho avuto l'opportunità di farle. Era previsto una scaletta in questo momento. Però perché se no diventa, allora, poi diventa davi spazio a persone come queste, spazio, non intelligenti come te, ma come persone che invece purtroppo hanno quell'approccio lì. Ci sarà più problema. No, non ci capita più di avere qui presidente, amministratore delegato e architetto. Sì. No, ma io non ci interessa, io ero qui per. Ma non mi interessa, cioè non mi sono spiegata, a me non interessa Carrara. No, a me interessa il progetto, sinceramente, da Giuliano. Ci sarà, ci sarà. Invece non abbiamo avuto, cioè ci siamo bruciati un'opportunità. No. Di vedervi scappare. Io sono qui e non c'è nessuno con cui interloquire, cioè ho parlato, l'unica persona che è rimasta era Daniele, ho parlato con lui. Ma non era previsto, ma non era previsto, però avete i nomi, votate, fate un convegno. Che io non sono politica, non sono residente a Pietralibre, mi occupo di rigenerazione urbana veramente. C'è una mail, e avevo due o tre domande. C'è una mail, si scrive, si fa una mail, si fa. Io lo so. Lo so come funzionano le campagne elettorali e non mi aspettavo però una situazione di questa mente. Però onestamente sarà una campagna elettorale questa. Certo, infatti vogliamo il confronto. Ma non avremo più l'opportunità del presidente, dell'amministratore delegato. cucina di Pinochet ho mai visto la roba. Esatto, bravo. Arrivo. Elena, dove è felice? È già fuori. Sì. Aspetta che adesso a questo punto posso stoppare la registrazione. Sarà quello che stiamo in diretta.